L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata in cui parleremo molto di suolo e agricoltura, ma anche di acqua, con un filo conduttore che non è solo quello delle risorse per la vita sulla Terra, che è ovviamente quello portante e fondamentale, ma è anche quello degli Expo, e cioè quello di Milano e quello di Venezia. L'abbiamo già detto in passato, a Venezia c'è Acque Venezia 2015, che è l'esposizione dedicata all'acqua e che è l'unica collaterale ufficiale dell'Esposizione Universale di Milano. Cominciamo però dal suolo. Si chiama People for Soil ed è la campagna per il suolo, appunto, lanciata a Milano in un convegno organizzato da Legambiente, LIPU, CIA, ACLI, INU, con il contributo di Fondazione Cariplo e in collaborazione con Fondazione Triulza. Insomma, è una platea molto ampia, come avete sentito, che è scesa in campo per la tutela del suolo, che, come abbiamo detto già più volte qui all'altro pianeta, è una risorsa essenziale, limitata, non rinnovabile, non sostituibile, da cui dipende il nostro benessere, la nostra sopravvivenza. Il quadro nazionale e internazionale per la protezione del suolo però è allarmante, perché il suolo non ha in questo momento alcun diritto. Ma nell'anno dell'Expo, dedicato alla nutrizione, che è anche l'anno internazionale dei suoli, forse si può muovere qualcosa, hanno pensato i promotori di People for Soil. Forse si può ricominciare a reclamare che l'Unione Europea si doti di uno specifico quadro giuridico per proteggere i propri suoli. Allora, ci siamo fatti inquadrare la proposta di People for Soil da Damiano Di Simine di Legambiente. È una campagna che parte oggi con un, chiamiamolo così, un kick-off meeting. Quindi lancio, è la prima volta che sentite parlare di People for Soil, perché oggi viene lanciata come iniziativa che è un'iniziativa di cittadini. Vogliamo costituire un network di organizzazioni europee ambientaliste di altri paesi membri sensibili al tema suolo e volenterose di lanciare un'iniziativa popolare a livello europeo per chiedere che il suolo entri nel framework legislativo dell'Unione Europea. Sappiamo che il suolo non è disciplinato da nessuna direttiva comunitaria, al contrario di acqua, aria, biodiversità, altri temi che sono parte del corpus legislativo europeo. Sappiamo che c'è un'ostilità ad affrontare il tema del suolo da parte della politica. Vogliamo far sentire una richiesta popolare di occuparsi del suolo come bene comune, e lo facciamo da Expo, un Expo in cui si è parlato molto di, giustamente, di nutrire il pianeta, di non sprecare il cibo, ma noi poniamo un problema. Ogni giorno in Europa spariscono 3 km quadrati di suolo fertile. 3 km quadrati, tanto per intenderci, è la superficie di suolo che, se venisse coltivata cereali, produrrebbe ogni anno una razione di cereali per 4 miliardi di abitanti, e noi ogni giorno questa razione la perdiamo. Parlare di consumo di spreco di cibo va bene, ma quando parliamo di spreco di cibo parliamo di uno spreco di un cibo contemporaneo. Quando parliamo di spreco di suolo parliamo di un cibo che noi sottraiamo dalla tavola, dalla mensa delle future generazioni. Per cui questo è il senso fondamentale di partire da Expo, per dire il suolo non può più essere considerato diversamente da quello che è, un bene comune che svolge una pluralità di funzioni ambientali per la biodiversità, per il carbon storage, ma anche per la produzione di cibo da cui noi tutti dipendiamo. Ne dipendiamo moltissimo anche in Europa, perché sulle mense dei 500 milioni di abitanti europei già oggi dipendono da suolo che non è europeo. Le superfici agricole dell'Unione Europea oggi soddisfano soltanto il 50% del fabbisogno alimentare dei cittadini europei. Quindi oggi si parte, ci sono già dei firmatari che non sono solo cittadini, però insomma vedo anche l'Istituto Nazionale di Urbanistica, la CIA, quindi la base è già piuttosto ampia, direi. Avete già in mente prossime tappe, prossimi appuntamenti? Ci sono i 5 primi firmatari, che sono in realtà i partner di una task force, peraltro sostenuta anche da Fondazione Cariplo, quindi va riconosciuto il merito di una fondazione che ha creduto in questa sfida di advocacy europea, che sono però i 5 primi sottoscrittori di un tavolo milanese che vuole allargarsi. Questi 5 sottoscrittori sono la LIPU, le ACLI, l'Istituto Nazionale di Urbanistica, la CIA e Legambiente. Questi 5 sottoscrittori però sono un gruppo di lavoro che vuole allargarsi in realtà alla pluralità delle rappresentanze di società civile in Italia come nel resto d'Europa. Questa iniziativa, quindi, People for Soil, sta cercando tra le ONG europee, gli istituti di ricerca, le associazioni di agricoltori, i gruppi di ambientalisti e via dicendo, dei sostenitori che si impegnino a essere in futuro il trampolino di lancio di una petizione mirata all'introduzione di una legislazione specifica sul suolo in Europa, che è una cosa possibile grazie al diritto di iniziativa dei cittadini europei introdotto dal Trattato di Lisbona. Non è la prima volta che si lavora per una direttiva sul suolo. Una proposta in tal senso fu presentata dalla Commissione europea nel 2006 al Parlamento europeo e al Consiglio europeo per le necessarie discussioni e poi per arrivare, insomma, a un'approvazione finale. Il Parlamento fu favorevole fin da subito, le difficoltà invece al Consiglio furono immense. Si arrivò a una minoranza di blocco di 5 paesi che fermò tutto. Il risultato è stato che la Commissione Barroso ritirò la proposta e alla fine fu cestinata. Allora, adesso cosa si può fare? A che punto siamo ora? Questo è quello che ha detto durante la presentazione di People for Soil Luca Montanarella del JRC, quindi il Joint Research Center, che è il centro di ricerca della Commissione europea. Dunque si pone adesso per noi la domanda: che fare? Devo dire che nel frattempo quello che abbiamo osservato è stato un incredibile aumento dell'interesse a tutti i livelli per la tematica del suolo. Devo dire molto grazie anche all'impegno della società civile e delle diverse organizzazioni non governative, sia in Europa che su scala globale. Come Commissione abbiamo fortemente sostenuto poi un'iniziativa della FAO per creare un partenariato globale sul suolo, la Global Soil Partnership, che è stata creata nel 2013, che ha poi portato alla decisione da parte delle Nazioni Unite nell'Assemblea Generale del 2013, alla creazione dell'anno internazionale del suolo, che è l'anno attuale, il 2015, e soprattutto all'istituzionalizzazione di una giornata mondiale del suolo ogni anno, che è il 5 dicembre. Dunque sono successe molte cose da quando la Commissione ha rinunciato ad avere un pacchetto legislativo sul suolo, che ci incoraggiano come Commissione a continuare questa battaglia, se posso dire. Poi, come diceva giustamente Ilka, si tratta di sensibilizzare un po' di più l'opinione pubblica, perché chiaramente se non c'è un forte sostegno dell'opinione pubblica verso una legislazione, e mi preme di dire una legislazione su scala europea, dunque significa occuparsi di suolo su scala transnazionale, significa che qualcuno al di fuori dell'Italia va a interferire, alcuni lo percepiscono come un interferimento, va a interagire, diciamo, con una legislazione nazionale che si occupa di suolo, che è, come ricordava giustamente il collega Michele Munafò, un argomento molto sensibile su scala nazionale, perché il suolo è qualcosa di percepito molto spesso come qualcosa di nazionale, difficilmente molti paesi accettano che ci sia qualcun altro che vada a dire a loro come va gestito il proprio suolo. Credo che ormai molti hanno capito che viviamo del suolo di altri, nel senso che è noto che su scala globale circa tra il 14 e il 18% di tutti i suoli, di tutte le terre emerse, sono gli unici disponibili per alimentare il pianeta. Dunque dobbiamo prima o poi metterci d'accordo come gestire questa quantità limitata di suolo su scala globale. Questo è quello che stiamo facendo nell'ambito del partenariato globale sul suolo, ma credo anche su scala europea sarebbe utile avere un dialogo su come gestire in maniera comune la risorsa suolo europea, che è una risorsa limitata. Quindi la Commissione rinnova questo impegno, ma nel frattempo le cose sul terreno non vanno affatto bene, ci ha detto Andrea Arcidiacono, che è ricercatore del Politecnico di Milano e responsabile del Centro di Ricerca sui Consumi di Suolo dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. L'INU è tanti anni che si occupa di suolo, che ha, come dire, è attento alle politiche di contenimento del consumo di suolo e si impegna perché queste vengano praticate e realizzate all'interno della pianificazione urbanistica, che è lo strumento con cui noi governiamo i nostri territori. Nel 2007 l'INU ha costituito il Centro di Ricerca sui Consumi di Suolo insieme a Legambiente e al Politecnico di Milano, proprio per occuparsi in modo specifico di questo tema, sia in termini di misure, perché fino a poco tempo fa non sapevamo nemmeno quanto suolo si consumava. Oggi devo dire che anche a livello nazionale l'ISPRA e altri istituti compreso il centro di ricerca, si sono, come dire, producono delle misure sempre più attendibili ed efficaci. Manca invece però la parte delle politiche. Non ci sono ancora delle politiche importanti nazionali e regionali di contenimento del consumo di suolo, perché fondamentalmente manca un quadro legislativo, mancano delle norme, delle leggi che rendano chiaro come operare in questa direzione. Quindi anche le normative che di cui abbiamo sentito parlare in questi ultimi mesi, anni, non hanno una forte efficacia, non so, penso alla Lombardia, altri che hanno cercato di dotarsi di strumenti. Bisogna fare qualche distinzione. A livello nazionale è stata in corso di iter parlamentare una proposta di legge che ha molti elementi positivi. Dinu l'ha detto anche pubblicamente, anche se poi abbiamo sottolineato che mancano alcune politiche che a livello europeo si stanno praticando in maniera invece più importante. Penso ad esempio all'uso della fiscalità come leva per disincentivare il consumo delle aree agricole o dei suoli liberi, e penso a una politica più forte sulla rigenerazione urbana, che è la vera altra faccia della medaglia, no? Se si riesce a lavorare sulla città esistente recuperando l'enorme patrimonio di dismesso, di sottoutilizzato e di abbandonato che noi abbiamo, si rende quasi inutile continuare a consumare suolo in un sistema dove le dinamiche demografiche sono comunque molto ridotte rispetto al passato. La legge nazionale però ha molti elementi positivi, e ne dico uno ad esempio è quello di riportare gli oneri di urbanizzazione a fare l'uso per cui sono stati pensati, cioè quello di costruire le città pubbliche, cioè i servizi, il verde, e non essere usati per le spese correnti dai comuni come invece è stato fatto in questi ultimi anni. È un elemento che ha alimentato il consumo di suolo, cioè i comuni hanno fatto cassa con le entrate edilizie. A livello invece regionale la legge lombarda ormai approvata non ci convince assolutamente, perché non ha effettivamente politiche in grado di contenere il consumo di suolo e introduce anche elementi piuttosto ambigui, diciamo così, nelle modalità di misura, e quindi questo l'abbiamo anche detto. Non pensiamo che possa produrre effetti positivi reali sul consumo di suolo, è più una legge che ha una retorica politica, quindi serve a dire che la Lombardia ha una legge sul consumo di suolo, ma nel merito la legge è piuttosto debole. Alcune cose si possono fare comunque al di là della legge, appunto fare una pianificazione più attenta al riuso, alla rigenerazione, evitare di consumare suolo laddove questo non è necessario, quindi essere più capaci di controllare i fabbisogni effettivi e non fare delle previsioni enormi nei piani urbanistici, e questo rimane un tema molto delicato. I piani urbanistici, che in Lombardia si chiamano piani di governo del territorio, recentemente approvati a valle della nuova legge urbanistica, che è del 2005, quindi sono piani tutti molto recenti, hanno una previsione di possibilità di consumo di suolo, per sintetizzare, molto alta, addirittura più alta del suolo che si è realmente consumato negli ultimi 10 anni. Questo vuol dire che, malgrado la crisi, malgrado un'attenzione, diciamo, nel dibattito e nell'opinione pubblica sempre più alta sul tema del suolo, chi fa la pianificazione, le amministrazioni che pianificano il proprio territorio, sembrano non tener conto di questi aspetti, non rispondere a queste esigenze. Perché, e lo ripeto perché per me è un punto centrale, continua a rimanere molto pesante il ruolo della rendita. Quando un suolo da agricolo diventa urbano vale 10, 20, 100 volte di più, e questo, l'economia, diciamo così, del valore del suolo continua a essere il motore più pesante di questi processi di urbanizzazione e di consumo di suolo. L'ultima cosa, veramente, crisi o non crisi, quindi abbiamo continuato a consumare suolo in Italia? Sì. Sì, questo è confermato da misure che vengono alle diverse scale, sia a livello nazionale. L'ISPRA, i dati presentati nel rapporto di quest'anno confermano che per quanto siamo ancora dentro un periodo di crisi che colpisce molto pesantemente il settore delle costruzioni e il settore dell'edilizia, si continua a consumare suolo. Le ragioni sono varie, dicendola molto in breve, è perché si riduce molto gli interventi costosi, quindi quelli sulla città esistente, si continuano a fare quelli che costano molto poco, quelli sui suoli liberi, per cui per quanto la crisi pesi sull'edilizia, pesa molto di più negli interventi buoni, cioè quelli sull'esistente che andrebbero sostenuti, piuttosto che quelli sui suoli liberi, che invece continuano ad andare avanti proprio per quell'effetto di rendita urbana che rimane il motore, diciamo, principale del consumo di suolo. Poi c'è un peso anche molto elevato nelle opere pubbliche, nelle infrastrutture. A volte servono, a volte servono di meno. Il peso che queste hanno sul consumo di suolo a livello nazionale è tra il 40 e il 50% del consumo complessivo, quindi evidentemente è quello che è la voce, diciamo così, che incide maggiormente sul consumo di suolo a livello nazionale e poi anche a livello locale. Ci lasciamo per qualche minuto, ci ritroviamo tra pochissimo e continuiamo. Radio24.it è sempre con te anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. L'altro pianeta. Ancora buon pomeriggio da Laura Bettini. Abbiamo parlato nella prima parte di People for Soil, un'iniziativa che sta cercando sostenitori per arrivare in futuro, anche se magari lontano, a una direttiva suolo che protegga i suoli europei. Adesso invece cambiamo argomento, anche se ancora di terra parliamo, perché in questa seconda parte i nostri ospiti sono gli agronomi, che in Italia sono riuniti nel CONAF, il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali. Hanno un'associazione mondiale che si chiama WAA ed è presente questa associazione all'Expo con un padiglione in cui propone la sua fattoria globale, dove si presenta un modello di azienda globale della filiera agroalimentare per una produzione che però resti identitaria, sostenibile e duratura. Ci presenta il padiglione e il concetto generale della fattoria globale Rosanna Zari, che è vicepresidente del CONAF. I temi che vengono sviluppati qui sono temi che bene o male conosciamo, ma sono affrontati dal punto di vista degli agronomi e quindi un punto di vista molto particolare rispetto a quello che di solito leggiamo sui giornali o affrontiamo anche in questa trasmissione. Per esempio la biodiversità, per esempio i cambiamenti climatici. Ci può dare un'idea di questi, che sono sei filoni che vengono affrontati? Sì, dunque sono cinque tecnici e uno invece legato proprio all'attività professionale, che è trasversale, che è la responsabilità del professionista, perché ovviamente non possiamo prescindere da questo aspetto. E la visione in questi spazi che sono rappresentati all'interno del padiglione, che peraltro sono a disposizione non solo dei nostri iscritti ma anche di chi li volesse utilizzare, sono temi che, come diceva lei, sono di interesse generale, ma il nostro punto di vista è quello dell'agronomo che in questo grande tema del cibo e dell'alimentazione è colui che progetta il cibo, quindi partendo dalla terra fino a mantenerne e a garantirne la sicurezza sulla tavola del consumatore. Questi temi, ad esempio i cambiamenti climatici, tanto per fare un esempio, sono affrontati dal punto di vista dell'agronomo e quindi cosa fa l'agricoltura, come cambia l'agricoltura per e come si adatta a seguito del cambiamento del clima, che non è solo quello che si percepisce come aumento della temperatura, scarsità o troppa pioggia, ma come l'agricoltura introduce nuove specie, fa quindi miglioramento genetico e quindi ecco il tema della biodiversità e del miglioramento genetico per l'adattamento delle specie al cambiamento climatico. Gli altri due che non abbiamo ancora nominati, tecnici, sono lo sviluppo rurale. Lo sviluppo sostenibile, perché questo è il tema che ci consente di produrre, quindi di mantenere alta la produzione o l'incremento produttivo senza andare a intaccare quelle risorse che sono finite. Ad esempio la terra, non esiste più terreno agricolo che possa essere deforestato o comunque utilizzato per la produzione, perché quello che era disponibile è quello e perciò dobbiamo incrementare la produzione su questi terreni cercando allo stesso tempo di non depauperare ulteriormente la risorsa naturale. Lo stesso dicasi dell'acqua, l'acqua che ci serve in gran parte viene utilizzata per l'irrigazione. Noi mettiamo in evidenza come ci siano oggi delle tecniche per ridurre ad esempio la quantità di acqua necessaria per l'irrigazione. attraverso sia specie che ne richiedono meno, ma anche attraverso tecniche innovative che consentono di ridurre la quantità. E a questo punto parliamo dell'altro Expo, quello di Venezia, si chiama Acque Venezia, dicevamo prima, è la grande esposizione dedicata all'acqua, è l'unica collaterale ufficiale dell'Esposizione Universale di Milano. All'interno di Acque Venezia c'è Pianeta Acqua, è il ciclo di eventi scientifico-professionali che animano il dibattito all'interno di Acque Venezia, è un ciclo di eventi che è curato da Gabriella Chiellino, che è presidente di E-Ambiente. E allora, ben ritrovata Gabriella Chiellino, facciamo il punto un po' sugli ultimi eventi. L'ultimo, intanto buongiorno a tutti, l'ultimo appuntamento che abbiamo avuto ha coinvolto degli approfondimenti sul tema della produzione idrica per produrre anche energia, quindi la correlazione tra l'acqua e l'energia, e quindi con la presentazione del rapporto UNESCO del 2014, e proprio come anche non solo nel tema dell'idroelettrico c'è bisogno e si usa l'acqua per produrre energia, ma anche nelle centrali termoelettriche, quindi con utilizzo di combustibili non alternativi, anche in questo caso le centrali hanno bisogno di molta acqua. Per cui si è parlato molto di questo tema e di come quindi l'acqua deve essere ottimizzata e deve essere protetta anche nei processi produttivi, sia quelli che producono energia, sia i processi normali che producono prodotti, food tutto quello che noi compriamo ogni giorno. Certo, perché appunto tutto fa parte di un unico, no? Dobbiamo stare attenti agli usi di tutto per poterci garantire anche in futuro di continuare con un diciamo uno stile di vita simile a quello attuale, però con più attenzione al risparmio e a non sprecare. No, assolutamente. Poi ricordiamoci che la richiesta d'acqua come domanda globale per l'industria e per chi e per anche la produzione energetica termodinamica aumenterà, secondo anche il rapporto dell'UNESCO, del 55% da qui ai prossimi 10 anni. E l'acqua di cui abbiamo bisogno è acqua dolce, che invece è in percentuale molto ridotta rispetto all'acqua globale, si parla di un 3%. Per cui ecco, è un tema in cui i processi industriali devono guardare con particolare attenzione. Certo. E quindi abbiamo presentato durante questi giorni di convegni anche un rapporto fatto dal DNV, del Nostre Veritas, assieme a un ente certificatore, diciamo. Che è un ente certificatore che quindi lavora come noi con le aziende ogni giorno, che ha avviato questa ricerca con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale per capire la sensibilità e l'impegno delle aziende nella gestione, nella riduzione dell'acqua. Due domande volevo fare, purtroppo non abbiamo tantissimo tempo per approfondire tutto, però una è appunto quella che riguarda le aziende, quindi un tema un po' più diciamo piccolo tra virgolette, perché le aziende che poi sono intervenute non sono aziende piccole quelle che hanno partecipato. L'altro aspetto che mi aveva incuriosito vedendo l'elenco di tutti i vari convegni e appuntamenti era quello che riguardava la Water footprint nazionale, cioè ci si comincia a fare attenzione a livelli nazionali a questa cosa, perché sul piccolo si fa adesso un po', alcune aziende hanno cominciato, come voi avete poi portato quelle che sono state lì, a livello nazionale, a livello italiano credo poco. Altrove? Allora, diciamo che grazie a questa ricerca abbiamo una visione delle aziende anche italiane, quindi c'è una sensibilità italiana rispetto anche all'Europa e al mondo, e diciamo che da questa indagine un'azienda su tre italiana ha una politica per il water management, che vuol dire cercare di recuperare l'acqua nel processo produttivo, utilizzarne meno possibile per unità di prodotto. E quindi le aziende italiane cosa hanno iniziato a fare? Hanno iniziato a misurare i consumi in maniera dettagliata all'interno del processo e quindi a ridurne il consumo con maggiore efficienza. Quindi diciamo che il sistema italiano, pur avendo un costo a metro cubo d'acqua tra i più bassi in Italia e anche nel mondo, ha comunque aumentato la propria politica e cultura verso un water management più attento. E questo, diciamo, mi rende contenta a me come cittadina italiana, ma soprattutto perché noi in Italia possiamo anche inventare delle innovazioni, delle tecnologie all'interno dei processi produttivi. Ricordo solo il tema dell'acqua imbottigliata. Sapete che noi siamo i primi consumatori al mondo di acqua in bottiglia, però all'interno dei processi produttivi italiani che producono le bottigliette d'acqua, diciamo che si è ridotto negli anni l'utilizzo di acqua vergine, quindi dai pozzi, per litro d'acqua prodotta, grazie appunto a questo water management molto spinto all'interno delle nostre aziende. Molte grazie Gabriella Chiellino per essere stata con noi anche in questa occasione. Ci ritroviamo, insomma, alla prossima tornata di appuntamenti. Assolutamente, quindi ci sentiamo presto e un saluto e una buona giornata a tutti.